abbandonato. È cresciuto un figlio che ha sempre vissuto nel peccato. Io vi stimo per tutto quello che avete sopportato. Fin da quando sono nato, dei problemi vi ho creato. I guai che vi ho procurato, gli euro che avete sborsato per pagare l'avvocato ad un figlio carcerato. Ma io dimenticherò ciò che avete fatto e fate per un figlio sempre immerso in situazioni complicate. Quante volte vi ho promesso, questa qui è l'ultima volta, e vi illusi di essere giunto finalmente ad una svolta. Invece continuavo a delinquere in mezzo alle strade, tra Torino e Ventimiglia, a concludere qualche affare. Mi avete sempre accettato, mi avete sempre difeso, anche quando ero nel torto e mi hanno preso. Voi mi avete donato sempre il vostro perdono, sapendo che io sono solo un poco di buono. Ciao, cari mamma e papà, I'm just a criminal. In questo modo qua ho scelto di vivere la mia vita. Sì, sto sbagliando e lo so, ma vi ripagherò, perché ora per me voi siete tutta la mia vita. Sempre in mezzo a qualche intrallazzo, non è affatto colpa vostra, è col tempo che sono diventato pazzo. Non mi avete fatto mai mancare niente, ma la droga e i soldi facili offuscano la mente. E mi sono ritrovato in un giro non da poco, vero del tutto cosciente di non essere in un gioco. Quante volte si sono presentati a casa col mandato, le vostre facce quel giorno io non ho dimenticato. Quello che abbiamo passato è tutto per colpa mia, pedinato ogni fottuto giorno dalla polizia, che si è presentata a casa sia in borghese che in divisa, a trattarci da mafiosi effettuando la perquisa. Mi avete protetto anche quel giorno storto, in cui tutte le prove mi erano contro. Io mi sentivo morto, il vostro amore per me ha superato tutto e tutto. Perdonatemi se sono solamente un farabutto. Ciao, cari mamma e papà, I'm just a criminal. In questo modo qua ho scelto di vivere la mia vita. Sì, sto sbagliando e lo so, ma vi ripagherò, perché ora per me voi siete tutta la mia vita. 27 anni passati sempre insieme, mi avete tanto un fratello a cui voglio un grande bene. Anche nei periodi neri avete stretto i denti, avete fatto sacrifici per vederci contenti. Non esistono parole per spiegare quanto vi amo, mi siete stati vicini anche quando ero lontano, e pensavo solamente a vivere da delinquente, spesso agendo totalmente da totale incosciente. Dovrò ripagarvi in futuro, per ora vi basti sapere che per voi darei la vita, ve lo giuro. Senza voi non sarei nulla in fondo, non sarei neanche qui a respirare l'aria di sto mondo. Ma ci siete e siete la mia più grande fortuna, ero proprio convinto di non averne alcuna. Poi ho compreso che l'avevo e proprio al mio fianco, quando per lottare oramai ero fin troppo stanco. Ciao, cari mamma e papà, I'm just a criminal. In questo modo qua ho scelto di vivere la mia vita. Sì, sto sbagliando e lo so, ma vi ripagherò, perché ora per me voi siete tutta la mia vita. Ciao, cari mamma e papà, I'm just a criminal. In questo modo qua ho scelto di vivere la mia vita. Sì, sto sbagliando e lo so, ma vi ripagherò,